colonie italiane tra la prima guerra mondiale e l'immediato dopoguerra. Se vi accomodate per il professor Schieder, adesso arriva pure lui tra pochissimo. Abbiamo una traduzione in tedesco del sommario, come al solito. Questo può, una breve traduzione in tedesco del sommario abbiamo. Questo può semplificare. Allora, se tu vuoi cominciare. Ma ci sono tutte. Adesso arriveranno. Prendete posto, per favore. Grazie. Gli anni della guerra videro le colonie italiane impegnate solo parzialmente come teatro di operazioni militari. In Libia, infatti, l'esercito, ritirandosi dall'interno, si limitò a difendere i centri costieri dalla rivolta araba appoggiata dai turchi. In Egeo, la flotta presidiò le isole occupate nel 1911 dal pericolo di attacchi avversari provenienti dall'Anatolia. In Albania, destinata ad essere un futuro possedimento italiano, dalla base di Valona, le forze armate italiane impedirono, dopo aver contribuito al reimbarco dell'esercito serbo, agli austro-ungarici di rompere il blocco dell'Adriatico. A seguito della diffusione del testo del Patto di Londra, avvenuta alla fine del 1917 per iniziativa dei nuovi governanti sovietici, cominciavano ad essere discusse pubblicamente le questioni relative ai futuri compensi coloniali spettanti all'Italia per la sua partecipazione alla guerra, mentre nel Paese era già vivo il dibattito sulla modernizzazione amministrativa e legislativa dei territori oltremare. Si aveva infatti la consapevolezza che il conflitto avesse provocato dei mutamenti nella società coloniale e che quindi dovesse esserne modificato l'assetto, tacciato per tanti aspetti di impreparazione e di dilettantismo che sembrava aver caratterizzato la prima fase della nostra esperienza africana. Già la conquista della Libia e il possesso, sia pure a titolo precario, delle isole dell'Egeo aveva indotto la classe politica ad impegnarsi maggiormente sulla questione della gestione dei territori oltremare e l'assetto dato alla colonia mediterranea, costituendo un interessante terreno di sperimentazione, aveva risentito infatti di un impegno più attivo e di scelte istituzionali realizzate con più celerità rispetto a quanto compiuto nelle colonie di più antica accessione. Impegno che l'approssimarsi della fine della guerra e la diffusa certezza del suo esito vittorioso avevano rafforzato, contribuendo a cancellare quasi del tutto quel senso di provvisorio e di precario che si era diffuso nell'alterne vicende del conflitto, conferendo invece alla dominazione coloniale italiana il segno di una lunga durata. Segno che si traduceva anche nelle prime discussioni sulle future prospettive di assegnare terre africane ai reduci della guerra perché le coltivassero. Il conflitto, le cui conseguenze avrebbero inciso profondamente sul tessuto istituzionale e legislativo della nazione, riverberandosi per le particolari contingenze anche nei territori oltremare, aveva dato una forte spinta a iniziative coinvolgenti il futuro delle nostre colonie, soprattutto in funzione di una loro maggiore valorizzazione economica e commerciale. Tra queste iniziative si inseriva il Convegno Nazionale Coloniale, promosso nell'aprile del 1917 a Napoli dalla Società Africana d'Italia, nata come club africano nella città partenopea e diffusasi nel paese attraverso varie sezioni per diffondere maggiormente, cito, una cultura coloniale più rispondente alle esigenze del momento e tale da creare una coscienza nelle classi dirigenti che concordi con una più larga evoluzione economico-commerciale dei territori oltremare. Ciò si rifletteva nel contenuto delle diverse relazioni presentate dagli studiosi, convinti dell'opportunità di affrontare questioni che di lì a poco sarebbero dovute essere discusse anche dagli organi costituzionali del Paese, che non poteva farsi trovare ancora una volta impreparato. Non erano però soltanto i problemi legati al nuovo corso che si voleva imprimere alla politica economica e ai traffici commerciali, che altri e non meno pressanti venivano portati alla ribalta dai vari relatori. Tra questi emergevano in primo piano quelli tendenti a rappresentare l'esperienza colonizzatrice mediante la creazione di centri ed iniziative per promuovere con intenti propagandistici la diffusione della cultura coloniale e della preparazione tecnica per le diverse attività destinate ad essere svolte oltremare. A tal fine si suggeriva l'allestimento a Tripoli di una mostra campionaria della produzione e del commercio nella colonia mediterranea e la creazione di un museo commerciale coloniale nella madrepatria. Si affiancavano a questi interventi altri che davano conto dell'operato svolto da alcuni centri o istituti specializzati come l'Erbario Coloniale e la Società di Studi Geografici e Coloniali, l'Istituto Agricolo Coloniale, la Società Italiana per lo Studio della Libia e delle altre colonie e, destinato ad assurgere ad un ruolo importante sul piano universitario, l'Istituto Orientale di Napoli, mettendone in rilievo soprattutto le finalità pratiche e culturalmente divulgative. A ciò si riallacciava la proposta avanzata da Angelo Mori, che, incaricato dell'insegnamento di legislazione coloniale presso l'Istituto Napoletano, dove erano attivati cicli di esercitazioni linguistiche compiute da assistenti indigeni che corrispondenti agli attuali nostri lettori e proveniente dai ranghi dell'amministrazione, sentiva, per l'esperienza acquisita direttamente sul campo, Angelo Mori era un agente coloniale di quarta classe, svolte direttamente, sentiva la necessità di affiancare ai corsi universitari delle attività svolte direttamente dagli studenti in un non meglio precisato laboratorio coloniale da istituirsi presso l'Ateneo Partenopeo, che avrebbe dovuto essere una fucina di ricerche e di acquisizione pratica delle cognizioni del mondo oltremare. Non è senza significato, peraltro, che più o meno nello stesso periodo si cominciasse a pensare all'opportunità di iniziare una campagna di scavi archeologici in Libia e di ricerche storico-artistiche nel Dodecaneso, al fine di esaltare la continuità tra la dominazione veneziana di quelle aree e le antiche dominazioni di Roma e Venezia. Ecco che un'altra volta sia il mito di Roma sia il mito di Venezia, a cui più volte si è accennato nel corso di questo convegno, riemergono, alla quale variamente si rifacevano i fautori dell'espansione oltremare della nazione. E che oggi peraltro noi possiamo anche vedere in una mostra che si sta per concludere a Roma sugli scavi archeologici e sulle ricerche di questo tipo a Rodi. A queste iniziative promosse da istituzioni culturali, altre se ne aggiunsero d'impulso governativo durante l'ultima fase della guerra. Tra quelle prese dal potere politico per risolvere, in vista del ritorno alla normalità, i problemi derivanti dal ripristino della normazione prebellica e quelli connessi all'eventuale riforma di alcuni suoi aspetti per adeguarla alle modificazioni prodotte dal conflitto sulla società civile, emergeva la creazione nel 1917 della Commissione Reale per il Dopoguerra, affidata alla guida di Vittorio Scialoia e resa operativa nell'anno successivo. Questa, ripartita in due sottocommissioni, annoverava nella seconda la settima sezione coloniale. L'opera di questa sezione si caratterizzerà per il carattere prevalentemente tecnico e non ideologico dei suoi dibattiti e delle sue proposte, mostrando quindi un'estrema aderenza alla realtà dei territori oltremare. Presieduta da Carlo Schanzer, la sezione era preposta allo studio di tutti quei problemi che il conflitto aveva generato, incidendo anche sull'assetto delle nostre colonie, nelle quali la diversa posizione geografica aveva prodotto esiti differenti. L'Eritrea e la Somalia erano rimaste quasi del tutto isolate, mentre la Libia, situata nel Mediterraneo, cioè in pieno teatro di guerra, aveva subito maggiori ripercussioni, aggravate dalla guerriglia interna che aveva ridotto il controllo italiano alle sole coste. Nell'inaugurare i lavori della sezione il 25 agosto 1918, il ministro delle colonie Gaspare Colosimo, tralasciando le questioni di politica internazionale strettamente connesse all'azione del governo e che sarebbero state poi risolte alla conferenza della pace, come noto senza troppe concessioni per l'Italia, poneva l'accento sulla necessità di mantenere ferma quella politica di collaborazione con i nativi che aveva ispirato la condotta italiana, specialmente in Libia. Tale condotta era destinata a favorire, come si era già espresso nella sua relazione alla Camera nel febbraio dello stesso anno, cito, secondo le esigenze dei tempi e la maturità delle popolazioni locali, per favorire appunto lo sviluppo di quest'ultime sull'esempio della politica di associazione sperimentata dalla Francia nelle sue colonie. L'esperienza francese, realizzata in particolare in Algeria, continuava ad essere anche in questo campo un ineludibile punto di riferimento per il legislatore italiano, che più volte si sarebbe ad essa ispirata per le sue scelte istituzionali e normative, come nel caso dell'attribuzione della cittadinanza italiana libica, di cui ci ha già parlato anche Luigi Coglia due giorni fa, esemplata sulla legge francese del 4 febbraio 1919. Questa norma, concedendo agli ebrei algerini la cittadinanza francese, imponeva loro di rinunciare allo statuto personale. Rispetto alla soluzione francese così drastica, quella italiana veniva considerata più avanzata dal momento che non poneva i libici di fede mosaica e di religione musulmana di fronte alla necessità di scegliere tra optare per la nuova cittadinanza o rinunciare al proprio statuto personale, salvo che alla poligamia per coloro che professavano la religione islamica, ovviamente all'ordine pubblico italiano. La diversa qualificazione della condizione giuridica dei nativi del territorio oltremare, con l'attribuzione ad essi dello status di sudditi o cittadini, avrebbe costituito nel primo dopoguerra un nodo fondamentale per il legislatore coloniale. Naturalmente, quando si parla di sudditi si fa riferimento ai nativi dell'Eritrea e della Somalia, diversa è la situazione per la Libia e per i dodecanesini. Costituiva appunto questo problema un nodo fondamentale per il legislatore coloniale, di cui Colosimo intuiva l'estrema importanza e le sue delicate conseguenze, riconoscendo che nell'ambito della politica indigena l'Italia avrebbe giocato il suo destino nelle colonie, soprattutto nei confronti dell'elemento musulmano, considerato in maniera assai diversa rispetto alle popolazioni, talvolta anche islamiche, dell'Eritrea e soprattutto della Somalia, per le loro più arretrate condizioni di vita, di civiltà e di cultura. Già durante la guerra, infatti, nel processo di assestamento amministrativo tendente all'integrazione delle aree assoggettate alla madrepatria, realizzato mediante l'utilizzazione di canoni istituzionali in essa da tempo sperimentati, in quella che più tardi sarà definita la quarta sponda, veniva progressivamente attuata l'assimilazione al contesto nazionale attraverso la partecipazione dell'elemento indigeno all'amministrazione locale e a quella centrale. Questa era compiuta sulla base di un programma genericamente definito sin dall'epoca della conquista dell'antico possedimento turco, che lo differenziava dal regime posto in essere nelle colonie del Corno d'Africa, cioè l'Eritrea e la Somalia, tra poco estesa con l'Oltregiuba. Sia nel Corno d'Africa che in Libia si tenderà però ormai, nella consapevolezza della certezza e della durata della conquista, a realizzare in forma definitiva quel programma di dominio diretto che avrebbe portato di lì a poco a cancellare anche i protettorati ancora esistenti nella Somalia. Di questa partecipazione si faceva sostenitore all'interno della settima sezione coloniale presso la Commissione Reale per il Dopoguerra Carlo Alfonso Nallino, secondo quel trend innovativo e avanzato che caratterizzerà l'attività propositiva di questo organismo, sottolineando la necessità di una maggiore utilizzazione di notabili e di capi indigeni nelle strutture amministrative, che già era stata adombrata dall'ordinamento Bertolini del 1914, sino a proporre di affidare in Libia la carica di commissario regionale in casi eccezionali ad elementi locali, ed un più ampio inserimento negli uffici pubblici di indigeni dotati e capaci ai quali attribuire per le loro mansioni esecutive il medesimo status giuridico riconosciuto agli impiegati d'ordine della metropoli. Nel quadro degli organismi creati per coadiuvare l'operato nazionale in quei territori, infatti, di rilevanza non secondaria, cioè Libia, appariva la creazione nel marzo del 1917 del Comitato Centrale Consultivo Libico, istituito presso il Ministero delle Colonie, la cui specifica funzione era organismo a cui ha fatto anche riferimento il professor Ghisalberti nella sua relazione introduttiva, che prefigurava in nuce i parlamenti libici concepiti da Mendola, erano stati affiancati i comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e per la Cirenaica, con accentuato carattere amministrativo e con facoltà di esprimere il proprio parere su argomenti posti di propria iniziativa all'ordine del giorno, previo consenso del governatore, durante le sessioni ordinarie e plenarie, nei cui confronti la sezione non mancava di esprimere riserve, ritenendo opportuno riformarli per conferire ad essi maggiore indipendenza e capacità di iniziativa, svincolandoli dalla scelta dei suoi membri compiuta dal governatore. La sezione, infatti, mediante Nallino, si faceva promotrice dell'intendimento del ministro Colosimo di introdurre l'elettività parziale dei componenti di questi organi sulla base di una rappresentanza regionale e di dotarli di funzioni deliberative in alcune materie, al fine di avviare la colonia ad un regime progressivamente rappresentativo nell'ambito sempre però della sovranità italiana. Altro punto nodale affrontato dall'amministrazione coloniale italiana in quegli anni fu la riorganizzazione delle comunità israelitiche locali, dettata dalla necessità di assicurare agli ebrei libici la piena uguaglianza civile e il rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni, ma al contempo di contemperare l'antica autonomia che quegli organismi avevano goduto sotto il governo ottomano con le esigenze dello Stato liberale, come è stato messo in luce da Renzo De Felice appunto nel suo volume sugli ebrei di Libia. Secondo quanto previsto dal decreto Caneva del 1911, si giunse soltanto nel 1916, dopo una serie di ritardi e di difficoltà, all'emanazione di un regolamento modellato sulla legge Rattazzi, che aveva ordinato nel 1857 le comunità israelitiche italiane, la cui validità però rimase limitata unicamente a quella di Tripoli e alle sue dipendenze, cioè rimase esclusa la comunità israelitica di Bengasi. La nuova organizzazione comunitaria e la scarsa entità numerica degli ebrei libici spingevano nel dopoguerra a ritenere prematura la creazione di assemblee miste rappresentative, cioè dei due gruppi etnici maggioritari, per i quali si riteneva necessario ancora in quella fase mantenere la tradizionale distinzione. Nella definizione del nuovo indirizzo da imprimere alla politica indigena non si poteva però non tenere conto, come sottolineato più volte da Gaspari Colosimo, dal contributo offerto dalle popolazioni coloniali durante la guerra. Il ministro riteneva infatti necessario assicurare loro un sistema di garanzie personali ed opportuno realizzare un'opera di avvaloramento dei loro territori nell'integrazione con le risorse e le ricchezze nazionali, da porre in essere mediante iniziative private sostenute dallo Stato. Ciò sarebbe stato affermato anche al Convegno Nazionale Coloniale per il Dopoguerra, tenutosi a Roma nel gennaio del 1919 da Guglielmo Chamarra, che è un personaggio di cui Luigi Goglia ci ha tracciato un profilo lo scorso giorno, tenutosi a Roma appunto nel 1919, in cui Chamarra, in un intervento sulla politica indigena, per la grande preparazione di uomini e di cose che questi aveva assunto nei ranghi della magistratura coloniale, si poneva su posizioni molto avanzate favorevoli alla progressiva attuazione del principio di autodeterminazione che assicurasse in futuro agli indigeni autonomia amministrativa e politica. Principio questo di cui si era fatto già paladino ante litteram un decennio prima Gennaro Mondaini, figura importante della scienza giuridica coloniale italiana. Quanto suggerito dal ministro nel suo discorso inaugurale avrebbe dovuto avere attuazione mediante la creazione di infrastrutture che però non vengono, diciamo, qui specificate, la formazione di un preparato ed efficiente personale coloniale, il cui reclutamento aveva costituito sin dall'inizio della nostra espansione oltremare un problema di non facile soluzione e per il quale si sosteneva l'opportunità di creare ruoli aperti anche per incrementarne le assunzioni ed ampliarne l'organico. La scarsa entità numerica e la mancanza di un'adeguata preparazione professionale del personale dell'amministrazione coloniale, infatti, incideranno sempre sulla gestione delle colonie, riflettendone le carenze e le deficienze di fondo. Nel riallacciarsi a quanto esposto da Colosimo, il presidente della sezione, che era appunto Carlo Schanzer, poneva a sua volta in luce come l'amministrazione coloniale italiana avesse attraversato negli anni del conflitto un momento particolarmente delicato, che si era riflesso anche nella condizione dei nostri possedimenti oltremare, aggravando le difficoltà preesistenti alle quali altre e nuove se ne aggiungevano, ma al contempo per il contributo di uomini e materie apportate durante la guerra, offrendo all'opinione pubblica nazionale un'immagine indubbiamente più positiva e meno stereotipa delle nostre colonie e della nostra politica coloniale. Composta da alcuni parlamentari, da alti funzionari dello Stato, da professori universitari e da studiosi di diritto coloniale che dedicandosi a questa nuova disciplina sin dai primi del secolo avevano contribuito alla sua maturazione, dettandone i principi fondamentali e fornendone le prime trattazioni sistematiche, penso alla voce Colonia Eritrea di Attilio Brunalti nel Nuovo Digest Italiano o al primo manuale che è stato il corso di diritto coloniale di Santi Romano, e tutti questi studiosi contribuiscono a appunto, che è prettamente un amministrativista, ma si occupa per primo di fornirci appunto una trattazione sistematica nel 1918 del diritto coloniale italiano, a cui poi seguirà, torna alla metà degli anni 20, il manuale di Gennaro Mondaini che coniuga insieme la storia e il diritto coloniale. Comunque tutti questi studiosi che fanno parte della settima sezione coloniale hanno contribuito a formare le basi della successiva scienza giuridica coloniale. E la sezione riuscì alquanto velocemente a svolgere i suoi lavori formulando già all'inizio del 1919 proposte precise e puntuali. Queste, ripartite per settori sulla base di singole relazioni, erano dedicate rispettivamente all'ordinamento amministrativo, giudiziario, alla politica indigena e all'economia coloniale e svolte con argomentazioni nelle quali la visione strettamente giuridica si accompagnava al giudizio dettato dalla vasta esperienza di molti dei suoi membri degli aspetti sociali ed economici dei problemi delle nostre colonie, anche per la provenienza di alcuni dei suoi membri, come abbiamo detto, dai ranghi dell'amministrazione coloniale. Nelle diverse relazioni appare essere quasi sempre presente il riferimento all'esempio straniero, considerato talvolta più avanzato, soprattutto in campo amministrativo, come nel caso francese, dal quale prendeva le mosse Carlo Schanzer, molto attivo nell'ambito della sezione, nella sua relazione sugli organi consultivi del Ministero delle Colonie, per sottolineare la necessità di riformare il Consiglio coloniale nelle sue funzioni, ripristinando l'originaria competenza del Consiglio di Stato in materia coloniale e nella sua composizione sin allora caratterizzata nell'ambito del Consiglio coloniale, dalla prevalenza dell'elemento burocratico, introducendovi sia elementi di adeguata capacità tecnico-economica, sia elementi in grado di costituire una seppur embrionale rappresentanza degli interessi industriali e commerciali per i territori oltremare. A suo parere, infatti, la composizione di quest'organo non sembrava offrire sufficienti garanzie di competenza riguardo alla complessità, alla varietà e all'importanza delle questioni che erano sottoposte al suo vaglio per la presenza, non sempre qualificata, di funzionari statali dotati delle necessarie conoscenze per esercitare una così ampia funzione consultiva di carattere giuridico, amministrativo ed economico. Di là a poco, infatti, nel 1922 il Consiglio coloniale sarà soppresso, sarà istituito un Consiglio superiore coloniale e quasi alla fine della nostra esperienza coloniale presso il Consiglio di Stato verrà istituita una sezione specifica con funzioni meramente consultive che è stata la sesta sezione per l'Africa italiana nel 1919. La storia di questa sezione è una storia molto particolare, permettetemi questo breve inciso, perché la sesta sezione è una sezione provvisoria, una sorta di sezione jolly, prima appunto che non sarà poi istituita definitivamente a partire dal 1946 e che corrisponde questa sezione definitiva alla nostra attuale sesta sezione. Dicevo, la sesta sezione nasce per la prima volta nel 1919 e viene creata per esaminare i ricorsi amministrativi provenienti dal Trentino Alto Adige e dalla Venezia Giulia a seguito della annessione all'Italia, e opererà fino al 1922 con funzioni in un primo momento sia consultive che giurisdizionali. Ritorniamo alle colonie. Ripartendo la funzione per materie tra il Consiglio di Stato e il Consiglio coloniale, la competenza di quest'ultimo avrebbe dovuto estendersi a tutte le colonie, a differenza di quanto si era realizzato sino a quel momento, con l'esclusione della Libia, forse per la particolare visione che si aveva del futuro di quel territorio. Discorso questo che si riallacciava all'intervento di Umberto Borsi, che è un amministrativista che insegna a Bologna, sulla riforma della giustizia amministrativa nelle colonie italiane, che è noto per i suoi lavori sul comune e più in generale per i suoi studi sulla giustizia amministrativa in Italia. Negli anni del conflitto si era convertito agli studi coloniali, divenendone negli anni successivi uno dei maggiori cultori, che proprio in questi anni, tra il 1916 e il 1917, contribuisce insieme ad Angelo Mori a darci una definizione da un punto strettamente giuridico del concetto di colonia. Rilevando la lenta e spesso farraginosa organizzazione di un compiuto sistema di giustizia amministrativa per la tutela di quanti cittadini o sudditi coloniali fossero o si ritenessero lesi nei loro diritti soggettivi o nei loro interessi legittimi da atti della pubblica amministrazione, frutto della mancanza di una chiara visione del problema, il Borsi cercava di delineare il sistema che meglio si fosse adattato alle particolari condizioni delle colonie nell'ipotesi di conflitto tra privati e pubblica amministrazione attraverso una progressiva assimilazione a quello metropolitano. Altro punto fondamentale che veniva evidenziato da Schanzer era quello riguardante la preparazione professionale di quanti si recavano da privati o erano inviati dallo Stato come funzionari nei territori oltremare. Ciò costituiva uno degli aspetti più pressanti nella riorganizzazione dell'assetto di quei territori. Tale problema si legava infatti strettamente a quello della ristrutturazione del sistema dell'istruzione coloniale, che che aveva ricevuto un importante impulso agli inizi del secolo dall'opera riformatrice del ministro per la pubblica istruzione Nunzio Nasi, destinata ad ampliare i centri e i settori di insegnamento delle materie coloniali presso le varie università del Regno, di cui però nel 1919 al Convegno Nazionale per il Dopoguerra Evaristo Carusi criticava ancora per il limitato sviluppo le scarse capacità formative per la preparazione professionale, in particolare dei magistrati, per i quali da più parte si richiedeva la creazione di uno speciale corpo coloniale che verrà creato soltanto agli inizi degli anni 40, quindi praticamente alla fine della nostra esperienza coloniale. Tramite Schanzer la sezione sottolineava l'esigenza di fornire cognizioni tecniche per la formazione professionale dei funzionari e di quanti in colonia si fossero dedicati ad attività imprenditoriali o commerciali da integrarsi con la preparazione linguistica mediante l'insegnamento dell'arabo, dell'aramaico, del turco e del greco moderno negli istituti superiori e nelle scuole medie. A riguardo, il presidente della sezione, avvalendosi delle proposte avanzate in materia dal convegno romano, riteneva necessario che l'ulteriore ampliamento dei centri di insegnamento della cultura coloniale nei suoi diversi settori fosse funzionale all'opera di valorizzazione agricola, industriale e commerciale che l'Italia intendeva perseguire nei suoi possedimenti, utilizzando allo scopo per la sua divulgazione centri specializzati come l'Istituto Agricolo Coloniale di Firenze o il Giardino Coloniale di Palermo, o creando sull'esempio inglese aziende agricole presso le quali impartire insegnamenti pratici e studiare materie tecniche per la formazione professionale su iniziativa privata ma con sostegno dello Stato. Alla relazione di Schanzer faceva da pandan nella parte relativa alla politica indigena quella compiuta da Carlo Alfonso Nallino sull'istruzione nelle colonie, dedicata alla situazione scolastica nei diversi possedimenti, riflettente le peculiarità dei singoli territori. L'islamista, al quale dopo l'occupazione della Libia era stato affidato l'incarico di studiare un programma di politica scolastica per gli indigeni, non accolto allora favorevolmente dal Ministero delle Colonie per le difficoltà di trasformare le scuole coraniche esistenti in istituti controllati dal governo e al cui posto nel gennaio del 1914 vennero create delle speciali scuole italo-arabe ad imitazione di quelle realizzate dalla Francia in Algeria, sottolineava l'importanza che tale problema assumeva nella colonia mediterranea rispetto a quelle di più antica accessione. Ciò per le particolari condizioni di vita e di cultura e le notevoli differenziazioni tra le varie regioni e tra gruppi etnici, stanziali e nomadi viventi in Libia. Vale la pena poi di sottolineare anche come un forte impulso venisse impresso in quegli anni agli studi orientali e in particolare di islamistica, con la fioritura di una grande e prestigiosa scuola di maestri, tra cui è doveroso ricordare Levi della Vita e Santillana. Anche in questo settore appariva necessario portare avanti, cioè nel settore scolastico, la politica di collaborazione. Sembrava infatti opportuno, per ottenere il consenso dei nativi, come evidenziato anche da Colosimo nella sua relazione parlamentare del febbraio del 1918, quella tendenza assimilatrice che aveva caratterizzato in Libia la politica indigena, con la creazione di scuole miste, nelle quali l'insegnamento effettuato da maestri provenienti dalla metropoli nella lingua italiana aveva arrecato grave pregiudizio alla didattica e all'apprendimento degli studenti. Ponendosi su una posizione molto avanzata, che faceva proprie le proposte della Commissione Tripolina per il dopoguerra, Nallino suggeriva di sviluppare la scuola elementare indigena esclusivamente araba o berbero-araba, con un programma uguale a quello dei Kuttab, cioè alle scuole coraniche, dipendenti dal governo egiziano, di durata triennale, con sussidi e sovvenzioni statali. Anche per quanto riguarda i libri di testo, proponeva di riprendere l'esempio dei testi appunto utilizzati nelle scuole egiziane. Nel rispetto della cultura locale, appoggiando una proposta avanzata dal ministro delle colonie, Nallino riteneva necessario inviare nei territori oltremare insegnanti che avessero frequentato corsi di tecnica pedagogica e di preparazione pratica per l'insegnamento ai nativi e contribuire alla formazione di un personale ausiliario indigeno per l'insegnamento nelle scuole italo-arabe, nonché la progressiva sostituzione dei maestri italiani con maestri indigeni. I provvedimenti presi tra il 1914 e il 1919, con i quali il governo italiano aveva posto in essere le prime strutture scolastiche in Libia, vennero però vanificati negli anni del conflitto dalla rivolta araba in Tripolitania, che limitò l'azione dell'amministrazione italiana ai principali centri della costa mediterranea e rese quindi inoperanti la maggior parte delle scuole istituite per i musulmani. Mentre per quanto riguarda le scuole israelitiche non c'è un diretto intervento dell'amministrazione coloniale italiana, perché le comunità ebraiche libiche erano già dotate di proprie scuole, le scuole Talmud Torah, in particolare quella di Tripoli, che aveva una lunga tradizione alle spalle, era una scuola che teneva stretti contatti con l'Italia, per il fatto che a insegnare in questa scuola veniva generalmente chiamato un rabbino proveniente dalla comunità di Livorno. Appariva comunque necessario creare anche delle scuole secondarie inferiore, oltre a curare la scuola elementare indigena, della durata di un triennio, destinate a fornire un complesso di cognizioni in lingua araba, considerata come lingua veicolare dell'insegnamento per quanti tra gli indigeni aspirassero a svolgere mansioni impiegatizie negli uffici pubblici o nel terziario, come diremmo oggi, delle scuole secondarie superiori a Tripoli e a Bengasi, della durata di un quadriennio, per formare con un diverso indirizzo negli ultimi due anni, da una parte, funzionari indigeni, commercianti, ragionieri, periti agrimensori, e dall'altro insegnanti di kutab, cioè di scuole coraniche, e di scuole secondarie inferiori. Per formare la magistratura indigena in Libia, che costituiva con i cadi una delle componenti del duplice sistema di giurisdizione già sperimentato in Somalia, Nallino proponeva l'attivazione di una scuola superiore islamica a Tripoli, già prevista dal regolamento scolastico del 1914, affidata a dotti arabi non libici, di preferenza egiziani, e presso la quale svolgere corsi in arabo da parte di studiosi italiani che avessero già insegnato all'Università del Cairo. Per la modernizzazione della società indigena si auspicava l'aumento e la diffusione, sull'esempio di quella tripolina, delle scuole professionali di arti e mestieri, per favorire la crescita e la specializzazione dei lavoratori indigeni e la creazione di cattedre ambulanti, esemplate sul modello di quelle italiane, per diffondere e sviluppare le cognizioni e le tecniche delle coltivazioni agricole. Educazione e istruzione dovevano essere quindi adattate, secondo quanto espresso dalla settima sezione coloniale, ai bisogni locali, alle condizioni sociali, alle necessità ambientali, alle tradizioni indigene, come di lì a poco sarebbe stato sancito dagli statuti libici che, ispirati da un profondo spirito liberale in materia scolastica, riprendevano quanto proposto dalla settima sezione coloniale per il riassetto delle scuole della Tripolitania e della Cirenaica. Negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto trovarono infatti attuazione diverse proposte della settima sezione, determinando il passaggio dalla fase della progettualità normativa a quella della operatività legislativa, contribuendo non infrequentemente al superamento di talune lacune nell'ordinamento giuridico coloniale e alla progressiva stabilizzazione dell'assetto dei domini oltremare. Cullandosi sull'illusione della loro lunga durata, non ci si rendeva però conto in quegli anni che la fine delle colonie tedesche e il loro passaggio allo status di mandato avrebbero significato nel tempo una tappa non del tutto irrilevante che avrebbe portato il colonialismo al suo tempo. Grazie. Alzo Derby, grazie. Ringraziamo Ester Capuzzo della sua relazione su questo momento di trapasso nella storia delle colonie italiane e anche dei grossa mole di dati che ci ha offerto sulla partecipazione di uomini di cultura, di uomini politici, di intellettuali a questa vicenda coloniale nel nostro paese. La grande illusione che evidentemente, come concludeva lei, si aveva ancora, senza rendersi conto che il colonialismo aveva imboccato la strada del tramonto proprio nella fine dell'impero coloniale tedesco, perché il passaggio delle colonie tedesche a mandati gestiti dalle potenze occupanti in nome della società delle nazioni doveva intendersi, anche se non viene inteso dai vincitori in quel momento, come la fine non soltanto dell'imperialismo tedesco in Africa, ma anche dell'imperialismo tout court di tutti in Africa. Ma gli italiani erano lontanissimi dal pensare a questo, e gli italiani erano tanto lontani che da lì a poco il regime successivo a quello liberale, cioè il regime fascista, compierà ulteriori imprese coloniali con la conquista dell'Etiopia e con la conquista dell'Albania. Quindi grazie. Se qualcuno vuole chiedere qualche cosa, per gli amici e colleghi tedeschi esiste un riassunto, quindi non c'è bisogno di interventi. Il professor Schieder, che è perfettamente bilingue, tanto che non sappiamo più se sia romano o tedesco, non ha bisogno di leggere il riassunto in tedesco. Sì, per me è stata molto convincente questa conferenza, ho imparato molto, specialmente sul status della Libia, che è differente delle altre colonie italiane, quale non ho visto prima. Vorrei, io ho due domande. La prima, lei ha parlato una volta del modello di Algeria, che sia stato un modello per gli italiani di organizzare in una maniera del dominio diretto la Libia. Un'altra parte della relazione, lei ha parlato anche del mito di Roma, e io mi ricordo che proprio in Libia ci sono stati tanti scavi dagli italiani proprio per trovare lì la storia romana. Allora, qualcosa c'è stato più importante, questa è la mia domanda, il mito di Roma oppure il modello di Algeria? Forse non si può rispondere a questo, ma sono due cose. Posso fare una seconda domanda? La seconda domanda è, lei ha già detto anche questo, la mia è abbastanza chiaro che questa politica è fallita, insomma. Già alla fine degli anni 20 c'è quella ribellione di, come si chiama questo, Al-Muqtada, no? se mi ricordo bene. Sì, ma poi c'è una repressione durissima di Mussolini, ci hanno organizzato questi lager e poi, come sanno dalle ricerche del Bocca, anche hanno usato il gas contro i civili, eccetera, proprio in Libia. Cioè, la mia domanda è che forse questa nuova politica di un dominio diretto sia stata proprio la ragione per la ribellione, come in Algeria, insomma, anche le stesse. Cioè, una dominazione più indiretta sarebbe stata più, anche cauta, sarebbe stata più favorevole alla politica italiana. Sì. Ma forse... Sì. Il problema, parto dall'ultima, del dominio diretto che viene realizzato in Libia, sullo scorcio poi diciamo dello Stato liberale, che poi non è che si realizza diciamo pienamente, perché anche quello che è previsto dagli statuti libici poi non è che viene attuato del tutto completamente. È che nella Libia forse, rispetto alle altre colonie, è sì un terreno di sperimentazione istituzionale, una sorta di laboratorio istituzionale coloniale che differenzia appunto la situazione libica da quella delle colonie acquistate precedentemente, cioè dall'Eritrea e della Somalia, fa sì anche che questa sperimentazione abbia portato a una sorta di accelerazione forse anche di modi di gestione della colonia stessa, provocando forse un impatto anche troppo forte che nella società libica, determinando invece che una integrazione, uno scollamento ancora maggiore. Per qua, credo almeno, per quanto riguarda invece il mito di Roma e il... Lei mi diceva, il mito di Roma e il modello algerino. Beh, questi sono due binari differenti, ecco, che operano in un senso diverso. Il mito di Roma è, diciamo, alla base della mitografia culturale che è sottesa alla conquista di Libia e al possedimento di questo territorio, che si incanala appunto anche attraverso iniziative scientifico e culturali di questo genere, come non so, gli scavi a Cirene anche, e così via. Tra l'altro in Italia ci sono diversi studi sulla archeologia coloniale e sull'architettura coloniale. Anzi, proprio preparando questa relazione al convegno mi sono accorta come gli storici dell'arte, gli storici dell'architettura si sono tanto occupati, molto più forse degli storici politici o degli storici delle istituzioni, nostri territori oltremare. C'è stato un interesse che è anche più risalente, diciamo, nel tempo, mentre gli storici politici o anche più tardivamente gli storici delle istituzioni hanno calato appunto un velo sulla nostra esperienza coloniale, gli storici dell'architettura, forse perché possiedono strumenti metodologici e interpretativi diversi dai nostri, in cui si riescono a utilizzare dei concetti ai quali, diciamo, è più estraneo un carattere morale o moralistico, hanno, diciamo, portato avanti degli studi anche significativi, e non è un caso che poi anche mostre di questo tipo si susseguano. Per quanto riguarda il modello francese in Algeria, è un modello che sì, è accolto dall'Italia, ma non lo è accolto poi tout court. Lo è accolto, diciamo, per quanto riguarda la cittadinanza, come appunto abbiamo detto prima, però la posizione dell'Italia è più avanzata, perché gli indigeni possono mantenere il loro statuto personale, quindi possono mantenere tutto quello che è il loro patrimonio religioso, culturale e in un certo senso anche giuridico, perché ovviamente per gli ebrei significa anche il mantenimento dei tribunali rabbinici, il riferimento alla legge mosaica e coranica per i musulmani. Non lo è accettato per esempio il modello algerino per quanto riguarda gli organi consultivi, perché a un certo punto proprio nell'ambito della settima sezione coloniale, quando Schanzer dice che sì, è necessario riformare il Consiglio coloniale, come abbiamo visto, allargando, diciamo, le componenti di questo organo, ma è meglio però in questa, diciamo, riforma da apportare a questo organo non riferirsi a quanto sta facendo la Francia, dove c'è un pullulare di organi consultivi che non avrebbe facilitato diciamo, la gestione di questi territori, perché accanto poi al Consiglio coloniale ci sono anche organi consultivi per le colonie istituiti presso i vari ministeri. Grazie. C'è qualcun altro? Prego. Sì, parte mia, insomma, che era uno giustamente considerato, insomma, uno dei principali esponenti della riflessione sulla necessità di cambiare, insomma, c'era proprio abbastanza centrale viste sui locali in Italia, insomma, esiste forse un'accentuazione più centralistica nel rapporto Stato italiano con l'ONU rispetto a quella che poteva essere, diciamo, l'espressione di Santi Romano sul... Beh, necessariamente c'è la centralizzazione, necessariamente c'è una più spiccata tendenza alla centralizzazione nelle colonie. Tra l'altro, ecco, per quanto riguarda la Libia, non è da tantissimo tempo che noi siamo lì. È vero sì che è una società più strutturata rispetto anche da un punto di vista amministrativo, perché ci sono le circoscrizioni dell'impero ottomano a cui fare riferimento, no? Vai Lezzi. Mentre diversa è la situazione nell'Eritrea e nella Somalia, però questo, diciamo, contrasto tra accentramento e decentramento, tra centro e periferia, che è un filo rosso, diciamo, che percorre il dibattito politico e amministrativo italiano dall'unità in poi, non è molto presente nell'ambito, diciamo, della scienza giuridica coloniale. Direi che non ce n'è neanche l'eco. Tra l'altro, alcune questioni di carattere prettamente amministrativo saranno poi risolte dalla commissione che nel 1921 viene creato per la riforma dell'amministrazione italiana, e questa commissione poi apporterà alcune modificazioni al Ministero delle Colonie, in particolare per quanto riguarda i possedimenti oltremare. C'è nessun altro? Il professor Tartaro. Io ho un'inizia, ma molto diretta, deriva il fatto che negli anni 80, sulla fine dell'Ottocento, si sia posto il problema dal punto di vista giuridico, ma precisamente dal punto di vista filosofico giuridico, insomma, voglio dire, all'altezza di quella fase che vede il sorgere delle prime carte della filosofia del diritto. Sì. E questa è la notizia, ripeto, per me assolutamente in diretta, anche se mi riservavo per la verità di approfondirla, che si pone il problema. Il problema è, insomma, di dare veste giuridiche e articolazione giuridica, oltre che giustificazione in termini giuridici, del problema che sembra così imminente. Un nome è quello di Filomeno. Sì. Questo. Allora forse mi pareva che il senso della domanda che anzi ho sentita rivolta a questo esito interessante che me la faccio mia. Cioè, noi ci troviamo in quella fase a cui questa qua è bellissima. Noi in una fase che si capisce fondativa per tanti aspetti, però questa fase fondativa è molto probabile che presupponga nella tradizione giuridica, presupponga un momento poi di elaborazione concettuale che vale la pena chiaramente di tenere presente. Non lo so, ma pongo un problema perché non ho proprio di strumenti. Posso? Un momento solo, scusa. No, io credo che il professor Tartaro abbia ragione, nel senso che ci solleva, ci porta in apicibus e ci porta prima dell'esperienza coloniale italiana. Io ho l'impressione che, se io non ho fatto studi su questo momento del pensiero e della teoria generale del diritto e della filosofia del diritto in particolare, ho l'impressione che tu ti riferisca a un momento in cui si vanno diffondendo studi di carattere antropologico-giuridico, che però coincidono in certo senso con la genesi anche di valutazioni che potremmo definire razziste, e quindi anche sulla determinazione di una superiorità della razza bianca che viene a coincidere con la visione del nero destinato ad essere dominato, diciamo, per non dire peggio, da questo. Ho l'impressione, cioè, che questi siano studi che giustificano, da un punto di vista della missione, dell'iniziativa, del primato, il bianco superiore rispetto al nero inferiore. Però io non ho fatto studi su questo tipo di cose, non saprei rispondere, non so se la nostra relatrice... Anch'io mi dispiace, mi trovate del tutto impreparata su questo aspetto, purtroppo non posso dare alcuna indicazione al riguardo. Grazie comunque. È un problema che va approfondito perché siamo tra l'altro in un periodo molto particolare, insomma, che è quello dello scientismo e del positivismo in cui si affermano certi concetti. L'antropologia nasce più in Germania. C'è qualcun altro che deve chiedere qualcosa? No. Allora possiamo, data anche l'ora, possiamo concludere. Ringraziando il relatore dell'ampia relazione, la relatrice, scusate, dell'ampia relazione e rinviandoci a domani mattina alle 9 per sentire parlare di problemi religiosi e delle chiese in Africa. Domattina alle 9, grazie.